Religione per tutti di Luca Spaziani. Buongiorno. Probabilmente ciascuno di noi avrà sentito parlare in quest'ultimo periodo di podcasting. Noi cerchiamo allora di definire cos'è il podcasting, come funziona, a cosa serve, da chi viene utilizzato e per quali scopi. Possiamo intanto definire il podcasting come uno strumento di diffusione di contenuti multimediali via internet, in particolare di contenuti audio, detti appunto podcast. E gli utenti interessati a scaricare questi podcast, questi contenuti multimediali, possono sottoscrivere un abbonamento, proprio come si fa con una rivista, e che permette loro di poter ricevere automaticamente sul loro PC tutte le nuove pubblicazioni dei podcast ai quali si sono abbonati, grazie ad un programma detto aggregatore che provvederà a controllare periodicamente i podcast sottoscritti e a scaricare automaticamente sul PC tutte le nuove pubblicazioni. Successivamente sarà possibile trasferire questi file su un comune lettore MP3 e quindi ascoltarli in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Il podcasting è attualmente utilizzato dalle radio per diffondere le puntate delle trasmissioni radiofoniche andate in onda in etere, ma è nato dall'iniziativa e dalla creatività di semplici utenti di internet che hanno pensato di realizzare e distribuire questi file audio contenenti riflessioni o informazioni su argomenti di loro interesse. Infatti è possibile ormai trovare podcast relativi a qualsiasi tipo di argomento. E noi cercheremo di trattare i molteplici aspetti del podcasting avvalendoci del contributo di persone che hanno a che fare a vario titolo con il podcasting e che hanno avuto la disponibilità di rilasciarci delle interviste attraverso le quali possiamo ascoltare dalla loro viva voce la loro esperienza e la loro conoscenza in merito al podcasting. Come abbiamo detto, il podcasting è utilizzato dalle radio per distribuire le loro trasmissioni. Noi abbiamo intervistato Andrea Massaroni, che è il responsabile del podcast di 610, una trasmissione di Rai Radio 2, e uno dei podcast italiani di maggior successo. Andrea, da quanto tempo utilizzate il podcasting? Da circa 2 anni. Da circa 2 anni noi prepariamo quotidianamente il podcast della trasmissione. Puoi spiegarci il processo di lavorazione che subisce una puntata dopo la sua messa in onda fino alla sua pubblicazione in podcast? Sì, a fine trasmissione la RAI registra tutte le trasmissioni in flusso continuo su formato digitale, su un server. Quindi noi prendiamo da questa registrazione il segmento della puntata, dopodiché lo isoliamo, tagliamo le canzoni, tagliamo il telegiornale, le pubblicità, che tutti i segmenti interni a 610, ma che non fanno in realtà parte del 610. Quindi isoliamo la parte che ci interessa, che prevede tutti gli sketch e gran parte di quello che è la conduzione in studio di Alex Braga. Dopodiché inseriamo, ove necessario, degli stacchetti musicali in modo da poter rendere fluido il risultato finale. L'obiettivo è quello di confezionare un prodotto che da solo a sé stante regga, funzioni. Quindi, pur mancando di alcune parti per ragioni, diciamo, editoriali, in alcune parti mi intendo la parte musicale, le canzoni, e quindi la parte di citazione del titolo della canzone, dell'autore. Anche il discorso di Alex deve essere fluido, non ci dovrebbero essere mai, se riusciamo a lavorare bene, dei momenti in cui chi ascolta il podcast si domanda: mi devo essere perso qualcosa? Ecco. Noi allora confezioniamo su computer dedicati qui in Rai questo prodotto, gli diamo un nuovo titolo e lo mettiamo su server. A questo punto comunichiamo che abbiamo fatto il nostro, qui nella redazione abbiamo pronto il podcast, e poi c'è un ufficio separato che si occupa di fare l'encoding, e c'è un ufficio ulteriore che rende disponibile al pubblico di solito la mattina dopo la puntata, e ci abbina un file di testo sempre da noi preparato in cui si specifica la scaletta della puntata. Sì, e qui a 610 abbiamo creduto nel podcast, e credere nel podcast vuol dire sfruttarlo e dargli anche spazio dentro la trasmissione, nel senso ricordare, lanciare il podcast. E per dare forza e invogliare lo scaricamento del contenuto di 610 su podcast, si è deciso di aggiungere dei contenuti speciali che non sono andati in onda via radio, quindi confezionati proprio su misura, e i risultati sono stati eccellenti perché hanno anche più che raddoppiato il numero di scaricamenti nei periodi in cui i contenuti speciali erano a disposizione. È stato un lavoro che, diciamo, viene naturale in 610, perché è una trasmissione che si presta molto ad essere ascoltata anche non essendo giornalistica, essendo degli sketch che non sono che valgono oggi come domani. Il vostro podcast riscuote un grandissimo successo di pubblico. Puoi darci qualche numero per avere un'idea di questo? Si può dire che mensilmente vengono scaricati circa 100.000 file, con una media settimanale che è stata tra i 20.000 ma anche i 45.000 in alcuni momenti, 50.000 sempre settimanalmente. Sì, è uno dei più scaricati perché per diverse ragioni, secondo noi. Uno, perché Lil e Greg hanno una base di fans e di sostenitori più larga di quello che la percezione comune può immaginare, perché il prodotto si presta molto, e perché noi, avendo investito risorse e attenzione nel podcast, offriamo tutti i giorni infrasettimanali del contenuto nuovo, quindi aggiorniamo sempre il podcast. E sì, e questo spiega perché poi abbiamo avuto questi numeri. Noi siamo molto in alto nella classifica di iTunes, pur avendo di recente la Rai cambiato categoria a tutti i suoi programmi, quindi cioè, bisogna un po' seguirle, sono logiche di marketing abbastanza o complesse o oscure in alcuni casi. Però tra i programmi radio televisivi sicuramente siamo tra i primi in Italia, costantemente. Ma come abbiamo detto, il podcasting è nato dalla fantasia e dalla creatività di semplici utenti di internet. Antonio Paolini è l'autore di Pendo Deliri, uno dei primi podcast italiani, e si tratta sicuramente di un podcast abbastanza originale, perché Antonio registra le puntate del suo podcast che successivamente pubblica su internet dalla sua macchina mentre ogni giorno percorre le strade trafficate di Roma per recarsi dalla sua abitazione al posto di lavoro. E allora ascoltiamo dalla sua viva voce il racconto di questa esperienza sicuramente singolare e curiosa. Antonio, com'è nata l'idea di realizzare Pendo Deliri? Sì, dunque, in realtà Pendo Deliri esisteva da prima che nascessero i podcast, perché già nell'agosto del 2003 esisteva questo audioblog che semplicemente raccoglieva dei file audio registrati mentre mi trasferivo da casa al posto di lavoro, file audio in cui raccontavo fondamentalmente quello che vede un pendolare quando si aggira per queste periferie. Poi nell'ottobre del 2004, quando sono nati i podcast, ho capito che c'era questa opportunità distribuire in modo molto più facile e intuitivo questi contenuti a un pubblico più ampio. E quindi verso la fine del 2004, nel dicembre, cominciai a, con uno sforzo minimo, a compilare questi famosi feed RSS, questi file che erano abbastanza facili tutto sommato da scrivere con un minimo di nozioni di uso del computer. E siccome sicuramente per il fatto di essere uno dei primissimi podcast in Italia e per il fatto di essere citato sui giornali che cominciavano a parlare del fenomeno, Pendo Deliri ha cominciato ad essere scaricato da molte persone, molte di più di quei 10-15 amici e parenti che all'inizio se lo ascoltavano dal blog. È diventato un po' un caso di studio, sia appunto per questa notorietà guadagnata di riflesso, sia soprattutto perché era una storia bizzarra su cui era facile anche scrivere una notizia di giornale. Molti giornali ne hanno parlato, perché appunto l'idea di qualcuno che parla mentre è in auto, mentre parla, che so, di cose molto banali come gli autogrill, le stazioni di servizio, le autostrade, i guardrail, oppure le zingare che ti leggono la mano perché ti fermano magari appunto mentre stai facendo la benzina, cioè tutte cose molto di margine. Sappiamo che una certa stampa ama trovare le notizie in queste storie bizzarre, ed è diventato in qualche modo un cult, senza che vi fosse nessuna intenzione, ambizione di tipo letterario da parte mia. Quali apparecchiature utilizzi per registrare i tuoi podcast dalla macchina? Dunque, la postazione mobile di registrazione è composta da un player recorder della iRiver, il modello è l'IFP 795, adesso ho l'895. In realtà tutta la serie IFP della iRiver adesso è fuori produzione, ed è un peccato perché si tratta di un prodotto portatile che permette di registrare da microfoni esterni non preamplificati, e quindi la qualità della registrazione è molto buona. E poi insieme a questo chiaramente uso un microfono che attacco, comunque un microfono un lapel mic della Griffin Technologies, che costa solo 15 euro ma che dà una buona registrazione in stereo. Io credo che lo stereo sia importante in Pendo Deliri, perché ciò che dico deve essere anche contestualizzato, si devono sentire i suoni della strada, si deve capire in che situazione sto parlando. Come scegli gli argomenti da trattare nei tuoi podcast? Ma allora, una buona metà vengono tratti proprio dalle vicende del pendolarismo, soprattutto la descrizione di questi non luoghi, cioè di questi luoghi di transito dove tante persone passano per poi sparire per sempre. L'autogrill, appunto, magari anche il centro commerciale, no? Queste nuove forme di urbanizzazione che caratterizzano le periferie. L'altra metà è in realtà il mio diario quotidiano di persona che ormai viene normalmente contattata per pareri sul mondo del podcasting, cioè in qualche modo spesso quando c'è un convegno o addirittura di recente delle lezioni universitarie o anche interviste, giornali, eccetera, quando si tratta di podcasting in Italia vengono chiamate queste 5-6 persone che sono quelli che hanno cominciato a fare podcasting indipendente, una piccola combriccola di persone che poi ci conosciamo tra di noi, siamo anche amici, e che di volta in volta cerca di fotografare il fenomeno. A chi hai intenzione, pensi, di rivolgerti quando registri i tuoi podcast? E perché secondo te gli ascoltatori di Pendo Deliri hanno deciso di sottoscrivere questo podcast? Cosa si aspettano di trovare? All'inizio era la curiosità di andare a vedere questo pazzo che prendeva un microfono e ci parlava dentro mentre era in macchina. I giornali ne parlavano, infatti ho avuto migliaia di abbonati, che sono adesso cifre che non ho più perché nel frattempo ne sono nati tantissimi altri che fanno cose francamente molto più serie. E quindi diciamo all'inizio c'era questo effetto curiosità, poi però c'è uno zoccolo duro che ha continuato ad essere abbonato alla prima, alla seconda e adesso anche alla terza serie che è in corso in questo momento e che mi segue appunto perché evidentemente si diverte forse a sentire queste storie, si incuriosisce. E poi c'è una terza ed ultima fascia che sono quelli che semplicemente pensano che io abbia sempre qualcosa da dire appunto sul podcasting e credono, essendo abbonati al mio feed, di essere aggiornati su questa tematica. Tu che sei uno dei pionieri del podcast in Italia, qual è il tuo punto di vista sul podcasting? Ma dunque io credo che sia stato superato ormai quel momento, quel cosiddetto hype, no? Quel picco di attenzione gonfiato dalla curiosità iniziale. C'è stato poi un momentaneo disinteresse, adesso invece si sta risalendo verso un livello di interesse giustificato dal valore effettivo di questo nuovo servizio, che chiamiamo podcasting, ma in realtà è semplicemente l'incarnazione più efficace, più efficiente e ormai standard di una cosa di cui si favoleggia da anni, cioè l'audio e il video on demand. Ci sono stati negli ultimi 20 anni tentativi di imporre piattaforme costose da parte di soggetti che avevano cataloghi proprietari, no, di contenuti, molto costosi e onerosi sia dal punto di vista di chi creava e distribuiva il contenuto, sia dal punto di vista di chi ne doveva fruire, quindi magari doveva pagare un abbonamento. Bene, il podcasting non solo abbassa drammaticamente, clamorosamente i costi per chi crea e distribuisce il contenuto, ma soprattutto è gratuito dal lato di chi ne fruisce. E quindi sta qui il concetto di efficienza rispetto ai costi che fa del podcasting sicuramente qualcosa che è qui per rimanere e che sarà sempre un catalogo sterminato di contenuti facilmente accessibili. Non credo che vi potrà mai essere un'offerta di contenuti proprietaria su altre piattaforme, su altri sistemi, magari a pagamento, in grado di fare concorrenza, perché ogni alternativa ormai è perdente, tra virgolette, in partenza. Un uso particolare del podcasting che sta avendo una diffusione sempre maggiore è quello legato all'attività didattica universitaria. Il tutto è iniziato quando nel 2004 la Apple ha messo a disposizione delle università americane una piattaforma su cui pubblicare in podcast dei contenuti didattici. Successivamente questa possibilità è stata estesa anche alle università del resto del mondo e quindi anche alcune università italiane hanno iniziato ad utilizzare questa piattaforma per distribuire lezioni o approfondimenti in podcast. Marco Lazzari è docente di teorie tecniche della comunicazione multimediale all'Università di Bergamo ed è l'ideatore e il responsabile di Pluriversi Radio, che è il primo progetto in Italia di podcasting universitario. Ascoltiamo la sua esperienza. Professor Lazzari, lei è responsabile di Pluriversi Radio, il servizio di podcasting dell'Università di Bergamo. Ci può spiegare com'è nata quest'idea? Questa idea è nata, direi, all'incrocio fra due filoni principali della mia ricerca, che sono quello della comunicazione multimediale da una parte e quello delle tecnologie per l'istruzione dall'altra. Dirò che già da tempo ero impegnato in attività di e-learning. Io ho diretto per alcuni anni il centro informatico umanistico della Università di Bergamo, che poi è confluito nel centro per le tecnologie didattiche e la comunicazione. Questi due centri si occupano dell'e-learning. In particolare io ho seguito lo sviluppo dei corsi per la didattica a distanza della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere della nostra università qui a Bergamo. E nel corso di questa attività ci è capitato di digitalizzare varie centinaia di registrazioni audio, che erano state fatte in precedenza dai nostri lettori di lingua e che erano a disposizione degli studenti nel laboratorio linguistico. Noi le abbiamo prese e le abbiamo trasferite nella piattaforma di e-learning. Allora è venuto un po' naturale, quando ha cominciato a diffondersi l'idea di podcasting, quella di sperimentare il podcasting come uno strumento didattico. È stato lì allora che ho cominciato a lavorare con un tesista allo sviluppo di Pluriversi Radio, meglio, abbiamo sviluppato una libreria software con Alberto Betella, una libreria software che si chiama Podcast Generator, che è una piattaforma open source che permette di costruire servizi di podcasting. E a partire da questa libreria software abbiamo costruito Pluriversi Radio. Pluriversi Radio è stato inizialmente uno strumento mio che ho usato per distribuire ai miei studenti strumenti didattici. Nel frattempo è stato adottato dal Centro delle Tecnologie Didattiche come uno degli strumenti che compongono la offerta di didattica a distanza dell'Università di Bergamo. Ha incontrato delle difficoltà tecniche o amministrative quando ha espresso alla sua università l'intenzione di offrire agli studenti un servizio di podcasting con il progetto Pluriversi Radio? Ma dirò, è filato tutto liscio, non ho avuto particolari difficoltà. Il centro di calcolo inizialmente mi ha messo a disposizione un server su cui installare il mio software, su cui depositare le registrazioni, e poi, come dicevo, una volta visto l'esito delle prime sperimentazioni, ha deciso di adottarlo, di integrarlo nell'offerta dell'università, e in questo momento ci sono alcuni altri colleghi che stanno registrando le proprie lezioni con l'idea e l'intenzione di depositarle su Pluriversi Radio. Quindi posso dire che dal punto di vista burocratico-amministrativo è stata un'esperienza davvero felice. Quali generi di contenuti vengono distribuiti in podcasting attraverso Pluriversi Radio? Sì, io di solito lo uso per distribuire materiali didattici ai miei studenti. La qualcosa significa che registro brevi lezioni, direi piuttosto sintesi di lezioni. Sono approfondimenti di temi che ho trattato nella lezione in presenza. O magari riprendo temi che nel corso della lezione in presenza ho capito che forse non sono stati molto chiari agli studenti. Raramente, direi una volta sola finora, mi è capitato di registrare invece una vera lezione in presa diretta. Lo uso anche per fare interviste. Ho intervistato colleghi, ho intervistato studenti che hanno avuto interessanti esperienze di tirocinio. Poi credo un'altra esperienza piuttosto interessante che ho avuto è stata quella legata al coinvolgimento degli studenti nella registrazione. Per uno dei miei corsi dell'anno passato, che si chiamava Laboratorio di Comunicazione Multimediale, si trattava di un corso nel quale introducevo era un corso avanzato di multimedialità, parlavamo di grafica, di audio, di qualità del web. E ho pensato di coinvolgere gli studenti nella registrazione di podcast. L'uso del podcasting in ambito universitario sta avendo una diffusione sempre maggiore. Quali pensa che siano le prospettive in quest'ambito? Lei vede più il podcasting come uno strumento di integrazione delle lezioni o piuttosto come una ulteriore risorsa per la didattica a distanza? Ma certamente il podcasting si sta diffondendo. Si sta diffondendo e sta diventando molto popolare. Non ci sono però purtroppo ancora, se non pochissime evidenze nella letteratura tecnico-scientifica, che trattino dell'impatto del podcasting, dell'impatto in termini di apprendimento. E io lo vedo personalmente, principalmente, come un sistema di integrazione della didattica in presenza. Alcuni altri colleghi lo pensano come uno strumento di lezione per la didattica a distanza, altri lo temono, nel senso che dicono: ma se io registro le lezioni in presa diretta, poi nessuno viene a lezione. Io Non amo molto la didattica a distanza tout court, mi piacciono di più gli esperimenti della cosiddetta didattica a distanza blended, cioè con momenti in aula e momenti a distanza. In questo senso io penso che il podcasting ci potrebbe dare una mano, proprio per quelle forme di approfondimento delle quali dicevo prima, per quelle forme di approfondimento che sono l'uso che io faccio del podcasting per sviluppare temi specifici. Certamente per gli studenti che occasionalmente dovessero saltare una lezione, avere a disposizione cose di questo genere può essere particolarmente utile per integrare, per esempio, gli appunti presi durante le lezioni alle quali hanno potuto partecipare. In conclusione, come si inserisce il podcasting nell'infinita varietà di forme comunicative che abbiamo oggi? Può essere considerato del tutto una novità o come la riproposizione sotto una nuova veste di qualcosa che abbiamo già visto e abbiamo già avuto in passato? Come si può identificare, se è possibile identificare, il pubblico dei podcasting? Lo abbiamo chiesto al professor Michele Sorice, docente di sociologia dei nuovi media e teorie dell'audience alla Pontificia Università Gregoriana. Professor Sorice, il podcasting è nato grazie all'iniziativa di semplici utenti di internet, in particolare blogger, che lo hanno individuato come risorsa per diffondere contenuti alternativi, informazioni, notizie, pareri, punti di vista su argomenti che normalmente non trovano spazio nei media tradizionali e nella radio tradizionale. Lei ritiene che il podcasting possa avere delle caratteristiche in comune con le radio libere degli anni 70? Ma sicuramente esistono dei punti di contatto, più che altro nel tipo di fruizione e anche di offerta dei contenuti. D'altra parte non dimentichiamo il significato del termine podcasting, no? Cioè pod nel senso di personal option digital casting, quindi almeno nella sua formulazione più colta, diciamo, più scientifica, che in qualche modo fa riferimento proprio alla personalizzazione non soltanto dei contenuti, ma anche della fruizione di questi contenuti. Quindi da questo punto di vista è un fenomeno molto simile a quello dell'avvio delle prime radio libere, che si fondava proprio sulla personalizzazione dei contenuti in chiave spesso alternativo o antagonista rispetto ai contenuti, chiamiamoli così, ufficiali, che invece provenivano dalle radio broadcasting tradizionali, che solitamente erano quelle del monopolio pubblico. Questi, diciamo, i punti di contatto. Ci sono però delle ovvie differenze, anche non soltanto concettuali, ma anche pratiche. Penso, per esempio, al fatto che le prime radio libere si fondavano comunque su una tecnologia già in qualche modo tarata, per così dire, già esistente e disponibile immediatamente ad un pubblico molto ampio. Il podcast funziona in maniera un po' diversa, ha bisogno comunque di un pubblico in qualche modo già più avvertito, più competente, più dentro i flussi anche di ricezione dei contenuti mediali, chiamiamoli alternativi, a differenza di quanto appunto avveniva negli anni 70. Alcuni podcast artigianali hanno raggiunto un discreto successo di pubblico e occupano ottime posizioni nelle classifiche di gradimento delle podcast directory. È possibile identificare il pubblico di questi podcast? Come mai molte persone sono spinte a cercare informazioni e notizie su argomenti che evidentemente non riescono a trovare nei media tradizionali? È possibile individuare delle micro community in questo tipo di pubblico? Sì, questo è un tema molto interessante e anche molto complicato, perché è difficilissimo individuare e identificare questi particolari pubblici. Sicuramente siamo in presenza di una fruizione che è quella tipica delle communities più o meno micro, nelle quali poi negli ultimi anni, sparpagliato, per usare il termine diffused audience che viene usato da Abercrombie & Longhurst, nella fruizione mediale in genere. Allora direi che da questo punto di vista La fruizione per microcomunità è difficilmente controllabile, calcolabile, misurabile. Sicuramente però rappresenta una tendenza sociale importantissima. Mi sembra che l'aspetto più interessante, questo difficilmente calcolabile ovviamente, è quello relativo proprio alla trasformazione del pubblico, quindi da un pubblico tendenzialmente passivo che subisce la programmazione qualunque essa sia, ad un pubblico che invece non soltanto è attivo nel senso che cognitivamente svolge un'attività nei confronti dei contenuti mediali, ma è attivo addirittura nell'aggregazione stessa di questi contenuti, nella loro costituzione. Ormai anche le radio e i network radiofonici hanno iniziato ad utilizzare il podcasting. Lei ritiene che questo nuovo metodo di fruizione della radio possa incidere anche sul modo di fare radio e quindi sui contenuti o sui format dei programmi radiofonici che siamo abituati ad ascoltare via etere? Ma questo è un po' difficile. È difficile trovare una risposta che sia veramente esaustiva. Io penso che, come spesso accade in questi casi, la ibridazione fra diverse modalità di uso e fruizione dei contenuti radiofonici non potrà che portare verso una trasformazione di entrambi, probabilmente a lunga scadenza. Sicuramente è in atto un processo di trasformazione dei contenuti radiofonici, ma questo però non so quanto sia una responsabilità diretta dell'uso del podcasting. Io credo che mi sembra che probabilmente la trasformazione dei contenuti radiofonici sia più connessa alle trasformazioni dell'audience, sia cioè più connessa al fatto che comunque l'ascolto tradizionale della radio non è più l'unico ascolto possibile e soprattutto non è più quello che riesce a raggiungere il maggior numero di ascoltatori della radio. Le radio hanno da sempre contato su un altissimo livello di fidelizzazione da parte dei loro ascoltatori. Lei ritiene che il podcasting possa incidere negativamente su questo fenomeno oppure possa favorirlo e incentivarlo? Ma io credo che in realtà, per quanto dicevo anche poco fa, il pubblico radiofonico, è un pubblico che facilmente si fidelizza anche perché altrimenti non ascolta. Cioè, l'ascolto radiofonico è fondato sulla fidelizzazione, sia quello dei grandi network, sia quello delle piccole radio più o meno artigianali, se ancora ne esistono, ovviamente. Quindi per sua stessa natura l'ascolto radiofonico è di questo tipo. Direi che, il podcasting sostanzialmente può alimentare e favorire in realtà la costituzione di un pubblico fidelizzato, proprio perché per sua natura il podcasting richiede un'appartenenza, un'appartenenza elettiva, no? La scelta di appartenere ad un particolare universo di significato e quindi ad un universo culturale che è quello rappresentato dai contenuti più o meno transitori che in quel momento la programmazione radiofonica propone. La produzione e la fruizione di podcast in Italia rappresentano ancora dei fenomeni di nicchia. Lei pensa che possano raggiungere livelli di diffusione che hanno già in altri paesi, come per esempio negli Stati Uniti? Sì, le premesse ci sono, naturalmente noi siamo un po' lenti in questo tipo di incremento e adozione di nuove tecnologie. Per quanto riguarda il podcasting, io credo che le possibilità ci sono anche perché c'è un pubblico giovanile sempre più competente e che può rappresentare l'elemento di traino per questo tipo di esperienza estetica. Podcasting, la comunicazione per tutti, di Luca Spaziani.